Salambe senza drone e senza vienda camena. Ma si va calda la manina, hai un bagno a Margellina, te ne riesco alla bella. Una passiata a mare e una barca a mare chiare, se non ti sei insurata da insurare. Ma dici ma verità, ci andando ma campà, chi dice che l'estate è una felicità. Burns with wild desires like a thousand flaming fires. Oh, there's a roaring in my heart, dear, like the surging of the sea, racing madly to be free. Give me kisses warm and true, take my love my whole life through, and never fear, I'll never be untrue. Dici ma verità, ci andando ma campà, chi dice che l'estate è la felicità.